con quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova, che ben sicuri mai non siamo che quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. Eppur parenti siamo un po' di quella gente che c'è lì, che in fondo è come noi, selvatica, ma che paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte, non sta fermo mai. Genova per noi, che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza, rare volte il resto è pioggia che ci bagna. Ah, Genova, dicevo, è un'idea come un'altra. Ah, na na na na na. Ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova ed ogni volta l'annusiamo, circospetti ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce di follia, foschia, pesci, Africa, sonno, nausea, fantasia. E intanto nell'ombra dei loro armadi tengono lini e vecchie lavande. Lasciaci tornare ai nostri temporali, Genova, ai giorni tutti uguali, in un immobile campagna con la pioggia che ci bagna e i gamberoni rossi sono un sogno e il sole è un lampo giallo al parabrisa. Quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi, che abbiamo visto Genova. Del campo c'è una graziosa, gli occhi grandi color di foglia, tutta notte sta sulla soglia, vende a tutti la stessa rosa. Via del campo c'è una bambina con le labbra color rugiada, gli occhi grigi come la strada, nascon fiori dove cammina. Via del campo c'è una puttana, gli occhi grandi color di foglia, se di amarla ti vien la voglia, basta prenderla per la mano e ti sembra di andar lontano. Lei ti guarda con un sorriso, non credevi che il paradiso fosse solo lì al primo piano. Via del campo ci va un illuso a pregarla di maritare, a vederla salir le scale fino a quando il balcone è chiuso. Amai ridi se amor risponde, piangi forte se non ti sente, dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fior. Dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fior. Ombre de muri, muri de maine, donde ne veni, dove le cane, densi tu du vali, a se mostrani, e a netta na punto, cotelo agu, e a monta la seu che resto tio, o diavolo in se, o se che effetto nio, ne sciurtimo da uma, pesci vai o se da odria, a fontana di cumbi, tacca de pria. E andale, e andale, e andale, e andale. E intacca de pria chi che saia, e intacca d'udria cu nulla mai na. Gente deliga facce de mandila. Quei che tu lo assu preferisci là, figge de famiglia o du de bon, che ti pia mia le senza algum dun. E andale, e andale, e andale, e andale. Passe de cose che daia, cose da bei, cose da mangia, frittia de pigne, gianco de portofin, cervele de ben, tu magimo vin, lasagne da figlia e quattro tucchi, facivi negro dulce de levre de cucchi. E andale, e andale. Enche a barca do vinho e naveguemos xiscante, emigrante do rio, muito entiante. Fim com a tincrechada, poeiro recante, red de gané, venia de feite. Bacan da corda, marça de gué de sã, caneliga e ne porta, antena cruza de mar. E anda, meu, e anda, meu, e anda. Andale, andale, andale. andare, andare, andare, e andare, andare, andare, e andare, andare, andare, Genova sappia che Genova si vede solo dal mare. Quindi non stia lì ad aspettare. Di vedere qualcosa di meglio, qualcosa di più di quei gerani che la gioventù fa ancora crescere nelle strade. Un porto di guerra senza nessun soldato, senza che il conflitto sia mai stato dichiarato. Un luogo di avvocati con i loro mobili da collezione e di commesse che gli avvocati la sera accompagnano alla stazione. Messe senza parola e senza restituzione, e giù alberghi della posta per ritorni senza eleganza e senza sosta. Restiamo volentieri ad aspettare che la nostra casa stessa riprenda il mare, e non dovremmo sbagliare. Bella signora che mi lusinga, recitando a memoria le mie canzoni. Il tuo divano è troppo stretto perché io mi faccio delle illusioni. Abbiamo tutti un cuore arido ed un orecchio al traffico. Restiamo volentieri ad aspettare che la nostra casa stessa riprenda il mare. Non ci possiamo sbagliare, non ci possiamo sbagliare. Senza una palanca, lea già 30 anni, fosse anche decente. Ulai valutò per metti di mia banca e poi se ne un bel giorno torna in giù e fasse a palassina un giardinetto, un rampicante qua cantina e un vin e a branda da caiermi a isoletto. Peda che nasce i mattini, ma un figlio che diceva non che pensa a Sena, cosa ti che tornare. Ma se che penso a lua mi vedo ma vedo i miei monti a Ciasa d'Annunzia, rivedo righi e me sa strenze o che vedo a lanterna a cava la ziume, rivedo a seia Zena illumina, vedo la fuge e sento franze umà. E allora mi penso ancun de ritornare a posa e osse du vo a me maduna. E lei passò du tempo, fosse troppo, e o figlio l'insisteva, stiamo bene, dove ti verrà papà? Pensiamo dopo, o viaggio, o mate, vejo no convento. Oh, non mi sento ancun in gamba, sono stufo e non ne posso proprio più. Sono stanco di sentir signor caramba e vedo ritornamene un po' in su. Chi te nasciu e te parla spagnolo? Mi sono nasciu senese e non che mollo. Ma se che penso a lua mi vedo ma vedo i miei monti a casa d'Annunzia, rivedo righi e me sa strenze o che e due lanterne a cava l'asium rivedo a seia zena illumina vedo la fuge e sento franze umà e allora mi penso ancun de ritornare a posse osse du vo a me ma aduna. Dame riva, solo te mandi il cielo. Dame riva, dame vita, o te fatto riso a man, dame vita. Ma perdoni eu, mago, ma te penso contro su. Eu so ben ta mio ma, poce ao largo do. E son chi affaccio a sto baule da maina e son chi a mia tre camicie de velio due coverte o mandolin e camade legno di te na vereta negra a te foto da fantina bebo e bajan com zena a te boca e na na na na na na na na na na na na na na na na passè anche per gamba eppure sono in pista scatenè gianco lo valse satanco una samba i reumi chissà dove l'han lasciè buttando poi o ballan con passion anche se gan le te danà in pension tango tango tango zanese loco sciperie senza pretese tango tango di tempi belli come si usava quando i mupi belli se a vitale in discesa e a King Azure bisogna ben cercare e ti assesci. Vito, vieni un pochino, vemo sto giro. Stasera mi sento tutto regagio. Tango, tango, tango zenese, per ricordarsi la nostra gioventù. E meglio stupete se le muspeise. Tango, tango, tango, tango zenese. I sueni in tutti in giro con la bocca aperta, amiando i tuoi coi mamme remescià, sono in tabreccia, sentinella allerta, asciati che stasera alle scappà. Nessun s'accorse che manca un show, e a fin di questo tango che arrestò. Tango, tango, tango zenese, balocco sciperie senza pretese. Tango, tango di tempi belli, come si usava quando i mupi belli se a vita alle in discesa e a King Azure bisogna ben cercare e ti assesci. Fito, vieni un pochino, fermo sto giro. Stasera mi sento tutto regagio. Tango, tango, tango zenese, per ricordarsi la nostra gioventù. E meglio stupete se le muspeise. Tango, tango, tango, tango zenese. Se tu frisce, se tasse un po' in sciume, e stasse a zinzania, dovei se accontenta de un piatto de faina, basta, non anasse ne. Dinte crese de mattin, fermasse con spazzin, insieme ciacerà. Senti lo duduma, senti figge sbraggia, fasse da un vento bagia. Fangio in cembello gusso, ti ha due priente legua. Parti a lampare che se ne va a pescare, fermasi in tempo d'un dan caso in tembalun fetu destrasse. Mm-hmm. due rustie. Nasci pa da otripa. Ma contentasse e non mesciasse. Ci